Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Siamo alla consueta puntata speciale che dedichiamo a ogni inizio anno al cacciatore di libri, diciamo sui libri che leggeremo nel 2016 in questo caso. Ma il 2016 sarà un anno particolare per i libri, perché? Beh, perché ci sarà, antitrust permettendo, la nascita del cosiddetto colosso Mondazzoli, ossia la Mondadori acquisirà formalmente la Rizzoli Libri, e quindi questo colosso coprirà quasi il 40% del mercato. Forse anche per questo motivo, per gli equilibri che sono ancora da definire, che quest'anno i responsabili delle case editrici, diciamo che sono stati più riservati riguardo alle uscite del 2016. Hanno avuto una certa prudenza nell'annunciare i grandi nomi, forse proprio in attesa di capire come andranno i rinnovi contrattuali e le strategie dei concorrenti. In qualunque caso, in questa puntata daremo una panoramica di quello che si sa già, dei grandi nomi che torneranno nel 2016 e degli esordienti invece da tenere d'occhio. Iniziamo da Mondadori e diciamo che l'abbiamo divisa in due parti, Mondadori stranieri e Mondadori italiani. Per quanto riguarda i romanzi stranieri, il quadro ci viene fatto da Marta Treves, che è appunto la responsabile della narrativa straniera della casa editrice. Sentiamola un po'. Come tutti gli anni noi avremo i grandi nomi che si ripropongono tutti i Natali, che saranno John Grisham, Patricia Cornwell, avremo molto probabilmente un nuovo Harris, e quindi insomma i tre grandi nomi da Natale ricompariranno anche quest'anno. E questi direi che sono i tre più importanti. Ecco, ci può dire qualche particolare su alcuni di questi libri o è ancora tutto top secret? È ancora tutto top secret, probabilmente stanno ancora scrivendoli, perché se loro scrivono un libro all'anno più o meno, secondo me sono proprio in work in progress. Quindi questo vuol dire che la pubblicazione italiana avviene più o meno quasi in contemporanea? Ovviamente, sì. Ci sono altri nomi molto popolari che ritorneranno nel 2016? Dunque, nel 2016 un altro nome che in realtà secondo me è un nome che sentiremo sempre di più, pur essendo il nostro autore da tanto tempo, è Terry Brooks, che noi pubblicheremo un altro libro all'inizio del 2016, la seconda parte della sua nuova serie. Vi dico però lo sentiremo molto di più perché Terry Brooks è stato preso, diciamo, inizierà una serie televisiva molto simile a quella di George Martin, Il Trono di Spade, e quindi insomma Terry Brooks, che per noi è un autore di fantasy storico, sicuramente avrà una nuovo lustro, nuova fame. Per quanto riguarda invece gli esordienti, che nome Mondadori straniero dobbiamo tenere d'occhio? Per quanto riguarda gli esordienti stranieri, noi abbiamo due autori importanti che compaiono all'inizio dell'anno. Il primo è Gert Herberg, con un romanzo che si chiama City on Fire, cioè Città in Fiamme, che è il grande romanzo letterario di cui tutti parlano in questo momento negli Stati Uniti. Lui è un autore giovanissimo che ha scritto un romanzo molto importante, che alcuni considerano un grande capolavoro, altri meno, ma che sicuramente in questo momento sta facendo seriamente discutere in America, dove è uscito un mesetto fa, e che piano piano tutti i paesi stanno facendo uscire, e che è sicuramente uno di quei romanzi che compaiono ogni 3-4 anni, diciamo, nel mondo della letteratura. L'altro nome invece di cui vorrei parlarvi è Christine Ann. Christine Ann è un'autrice americana che in realtà ha pubblicato vari libri in America, che però con questo suo libro che noi proponiamo all'inizio dell'anno, che si chiama L'Usignolo, negli Stati Uniti ha venduto più di 1 milione di copie ed è considerato, guardando la rete, guardando Goodreads, è stato addirittura premiato come il miglior libro da parte di Goodreads dell'anno, e noi lo proponiamo all'inizio del 16, che è un femminile mainstream in questo caso. E allora l'avete sentito da Marta Treves, per il Natale del 2016, dobbiamo aspettare quasi un anno, torneranno come appuntamento fisso John Grisham, il re dei legal thriller, Patricia Cornwell, che ha inventato il personaggio seriale di Kay Scarpetta, medico legale. Quest'anno per Mondadori tornerà anche Terry Brooks, famoso autore di fantasy di diverse saghe come quella di Shannara. Vi segnalo anche che a febbraio torna Sophie Kinsella con I Love Shopping a Las Vegas per l'epatite del genere. Fra gli esordienti da tenere d'occhio, come avete sentito, Christine Anna con L'usignolo, è un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale in Francia. C'è l'invasione nazista e una donna, Vianna, è obbligata ad ospitare in casa i nemici che tengono d'occhio lei e sua figlia. Diciamo che è un romanzo che ci descrive la guerra vista con gli occhi delle donne. Negli Stati Uniti questo libro è rimasto per 30 settimane nei primi 10 posti della classifica dei più venduti del New York Times, quindi insomma si annuncia come un successo anche da noi. Passiamo agli scrittori italiani che Mondadori ci proporrà nel 2016. Ce ne parla il nuovo responsabile del settore, Carlo Carabba. Quest'anno sarà un anno per noi molto importante, ricco di grandi nomi. Molti dei nostri autori più importanti, dei più importanti autori del panorama letterario italiano, torneranno con una nuova grande opera. Purtroppo, un po' saricamente, per il momento abbiamo deciso di non rivelarvi nulla di più di così, ma sarete i primi a saperlo, quindi restate connessi. E quindi ci fate stare un po' sulle spine, insomma, almeno promettete che a Radio 24 gli ascoltatori saranno i primi a saperlo. Promessa assoluta a Radio 24 e ai suoi ascoltatori. Allora passiamo agli esordienti invece. Quali esordienti Mondadori dobbiamo tenere d'occhio in questo 2016? Avremo a marzo l'uscita del libro d'esordio di Marcello Introna, Percò, un giovane autore pugliese che racconta con una voce letteraria, una lingua assolutamente originali, la storia di un giovane uomo che ha ucciso la propria famiglia a Bari nella fine degli anni 50, tenendo i loro corpi in casa per circa una settimana. Detta così può spaventare l'ascoltatore e il futuro lettore, ma è veramente un grande libro. Noi pensiamo che Percò sia un grande autore italiano delle generazioni che verranno. Poco dopo ci sarà un libro molto originale di un altro esordiente che si chiama Claudio Delicato, che nella vita fa un mestiere molto importante, perché fa il cooperante dell'ONU ad alto livello, è stato in Ghana per l'emergenza Ebola per esempio l'anno scorso, e torna con una grande satira geopolitica, la guerra di indipendenza di Roma Nord. Il libro è nato da un suo post sul suo blog in cui immaginava che i cittadini della parte settentrionale di Roma, che è una parte più ricca della parte meridionale, come spesso accade negli ecosistemi geopolitici, dichiarino indipendenza dalla parte invece più burina, come si direbbe a Roma, più coatta, che è la parte di Roma Sud, loro invece più pariolini, sempre per restare nell'ambito di categorie romane. Il terzo esordiente di cui ti parlo, proprio per spaziare, il libro d'esordio di Donatella Rizzati, che è una giovane donna esperta di iridologia e erboristeria, che ambienta una grande storia d'amore nella splendida cornice di Montmartre, un esordio che noi pensiamo possa piacere soprattutto a quella parte del pubblico che cerca storie d'amore, con queste due novità dell'iridologia, la scienza che determina i caratteri leggendo gli occhi, e dell'erboristeria, che invece è meno nuova, ma insomma, di cui l'autrice è veramente un'esperta. L'avete sentito, Carlo Carabba? Insomma, i grandi nomi italiani Mondadori per ora sono top secret. Posso solo segnalare che uscirà a gennaio il nuovo di Andrea Camilleri, Noli me tangere. Tutto gira intorno ad una donna, Laura, giovane, bella, molto amata ma anche molto volubile. All'improvviso si chiude in se stessa e non vuole che nessuno la tocchi, da qui appunto il titolo Noli me tangere. Una notte Laura scompare e dalle indagini si ricostruisce la sua figura enigmatica. Passiamo ad Einaudi, che lo ricordiamo fa sempre parte del gruppo Mondadori. A darci una panoramica su nomi famosi che tornano ed esordienti è Ernesto Franco, direttore editoriale Einaudi. Senz'altro un appuntamento importantissimo è il nuovo libro di Jonathan Franzen, Purity, che è stato salutato da tutto, dal pubblico e anche dalla critica, dal New York Times, che non è mai tenero con lui, e anche come un suo libro capolavoro. Purity è il nome della protagonista e della ricerca di una sua storia personale, di una sua identità, intrecciata con le vicende che ci caratterizzano, che caratterizzano il nostro mondo contemporaneo, sull'affidabilità delle notizie, sull'affidabilità della rete, altro tema caro a Franzen per tutti noi, come ci sconvolgono le vite e ci rivelano verità e vedere quanto queste verità c'erano menzogne o così via. Questo è senz'altro appunto uno dei libri di punta, direi. Ecco, narrativa italiana ci sono... Narrativa italiana c'è un grande ritorno in casa editrice di Franco Cordelli, con Una sostanza sottile, che è un libro di una scrittura straordinaria, e di nuovo qui in qualche modo un confronto di identità fra una figlia e un padre, ecco. E poi Rosetta Loi, ancora, con un libro intitolato Forse, ed è di nuovo una bellissima, come lei è maestra in queste cose, storia di maturazione della protagonista attraverso una storia familiare che è anche un ritratto di Italia. E un nuovo arrivo, di cui sono molto contento, che è quello di Giuseppe Culicchia, e io preferisco Gli scogli, è il titolo, e con un sottotitolo curioso, Dizionario intemperante dei luoghi comuni, un dizionario dei luoghi comuni che è, ahimè, uno specchio molto fedele e ironico, naturalmente, di quella che è la nostra sensibilità e la nostra cultura. Per quanto riguarda invece gli esordienti, no? Sì. Ci fa un paio di nomi che secondo lei dovremmo un po' tenere d'occhio? Uno sicuro è pubblichiamo in stile libero ed è Simone Giorgi. Il titolo sarà L'ultima famiglia felice. È la storia di una famiglia, appunto, che si crede felice, o meglio di un padre che ha tutte le autorappresentazioni che funzionano. Si crede un padre, come dire, molto dialogante, un padre molto aperto al dialogo all'interno della famiglia, crede di costruire così una famiglia felice e si dovrà confrontare con delle reazioni che invece gli smentiscono questo che è un sogno. È una scrittura molto curata, molto, molto vivace, molto contemporanea, e penso che questo sia un nome, come mi diceva, da tenere senz'altro d'occhio. C'è un esordiente straniero che volevo segnalare, perché è un libro un po' fuori dal comune, un libro unico, insomma. È una scrittrice, Helen MacDonald, e il titolo è Io e Mabel, ovvero L'arte della falconeria. È uno di quei libri che è molto difficile riassumere, perché tutto il fascino di questo libro sta proprio nel modo della scrittura e del racconto. La protagonista, che parla in prima persona, subisce un lutto grave che rimane una ferita inaspettata e potentissima, la morte del padre. Come reazione a questo dolore che gli sconvolge la vita, sceglie di, lei è una naturalista, addestrare un falco, anzi il peggiore dei falchi, nel senso che è una vera belva aggressiva, e c'è tutto questo confronto fra l'ottundimento che dà un dolore che ci chiude dentro di noi e la chiusura che abbiamo nei confronti della natura, che pian piano nel libro si scioglie. Più il falco, la storia, diventa addomesticato, diciamo, più lei diventa quasi selvaggia, insomma, è uno specchio con la natura per scoprire ciò che abbiamo nel nostro cuore. Fra i migliori 10 libri del New York Times, miglior libro di Amazon dell'anno scorso, un grandissimo successo sia in lingua inglese che in tedesco, che dappertutto nel mondo, e questo è veramente uno di quei libri irripetibili, diciamo, ecco. E allora, come avete sentito, torna Jonathan Franzen con Purity, romanzo molto atteso da uno degli scrittori americani più amati. Franzen, lo ricordiamo, era diventato famoso con Le correzioni. L'ultimo romanzo risale al 2010 ed era Libertà. Francamente io sono molto curiosa di leggere questo Purity, perché Libertà non mi aveva fatto impazzire, quindi voglio ritrovare il vecchio Franzen. Una breve pausa, poi parleremo ancora dei libri che arriveranno nel 2016. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Il cacciatore di libri. Riprendiamo a parlare dei libri che caratterizzeranno il 2016, passando a Rizzoli, che di fatto in questo anno diventa parte del gruppo Mondadori. Anche in questo caso bocche un po' cucite, ma sentiamo quali saranno alcuni nomi che appunto arriveranno da Rizzoli, da Michele Rossi, responsabile editoriale della Narrativa Italiana. Sarà un anno molto ricco, con delle proposte forti e con dei nomi che approdano in Rizzoli, non tutti, perché alcuni li potremo svelare solo fra qualche settimana. Accogliamo con un vero enorme piacere l'arrivo in casa editrice di Edoardo Albinati, uno degli autori più amati, stimati, che ha attraversato davvero la storia della letteratura italiana recente, ed arriva in Rizzoli con La scuola cattolica, un romanzo imponente che racconta i nostri anni 70 partendo da un preciso quartiere romano e da un preciso delitto italiano che è sullo sfondo, ed è un romanzo meravigliosamente vasto e da leggere. Io sono un lettore di Albinati da sempre, per cui gioisco davvero. Stefano Piedimonte è un nostro amico che viene anche lui in casa editrice con un romanzo irregolare dal nome L'innamoratore. Poi sarà interessante scoprire che lavoro fa questo nostro protagonista innamoratore, e anche il premio Campiello Andrea Molesini, che in inizio settembre uscirà con un romanzo davvero ben scritto, La solitudine dell'assassino, e che io sto lavorando personalmente con lui con grande piacere in queste settimane, perché ci tengo davvero in modo particolare. Per quanto riguarda invece gli esordienti, un paio di nomi Rizzoli da tenere d'occhio quest'anno? Partirei da una delle più note Wattpadder italiane. Wattpad è questa applicazione social da cui si è anche generato il fenomeno After di Anna Todd negli Stati Uniti, per cui è proprio da tenere d'occhio. E Sabrinex, che è una ragazza di Castelvolturno, di origini nigeriane, è nata nel 1999 e fa impressione a dirlo, e ha già oltre 2 milioni di lettori in digitale. Usciamo con Over, un'overdose di te, che è una storia d'amore molto appassionante. Usciamo, devo dire, con molto entusiasmo da parte della casa editrice proprio in questi giorni, i primi giorni di gennaio. E Evita Greco con Il rumore delle cose che iniziano. È un esordio che non sentivamo davvero da un sacco di tempo, perché è un libro che ci è arrivato e c'è stata una vera guerra editoriale per averlo a Francoforte, senza ancora averlo ancora pubblicato. È stato già venduto in Germania, in Francia, in Portogallo, in Brasile. È un libro molto, molto richiesto e molto atteso, ed è una storia intensa, sapienziale, e questo rumore delle cose che iniziano forse l'abbiamo sentito tante volte quando la nostra vita stava un po' cambiando, ma non ce ne rendevamo ancora conto. L'avete sentito allora, il corposo romanzo di Edoardo Albinati, La scuola cattolica. Stefano Piedimonte, che è passato a Rizzoli dopo aver pubblicato con Guanda libri come Nel nome dello zio e L'assassino non sa scrivere. Il suo romanzo 2016 è L'innamoratore. Sono curiosa di vedere se userà la stessa e consueta ironia tipica, insomma, dello stile di Piedimonte. Veniamo ora a Longanesi, la casa editrice di punta del gruppo GEMS, che comprende fra gli altri anche Garzanti, Guanda, Ponti alle Grazie e Vallardi. La parola va subito al direttore editoriale di Longanesi, Giuseppe Strazzeri. Grandi ritorni saranno sicuramente quello di Wilbur Smith, tra l'altro abbiamo ragione di credere con uno dei romanzi, diciamo, per i quali i suoi fan più impazziscono, ossia quelli della saga egizia, quindi sarà un grande Wilbur Smith. Sarà la volta del ritorno anche di Donato Carrisi è ormai una certezza nel panorama del thriller, a questo punto neanche italiano ma internazionale, e La sua ragazza nella nebbia sta andando splendidamente e ci si prepara un nuovo episodio delle avventure nell'incubo di Donato. Graditissimi, splendidi ritorni, anche frutto di un bellissimo lavoro che credo stiamo facendo sulla narrativa italiana, saranno quelli di Lorenzo Marone, che in primavera tornerà con il suo secondo romanzo. Siamo stati molto lieti del successo di La tentazione di essere felici, e arriverà con un romanzo con un altro bellissimo titolo, secondo me, che è La tristezza e il sonno leggero. Sarà una bella sorpresa della primavera. Sarà anche l'anno di Alessia, in un certo senso, per noi Alessia Gazzolo, ovviamente, perché Alessia non solo si presenterà con una novità, ma si presenterà con una novità della sua serie, appunto, dell'Allieva di Alice Allevi, in concomitanza con la fiction che la Rai darà in prima serata, riteniamo, insomma, all'inizio della primavera. Insomma, i palinsesti non sono ancora certi, per cui diciamo la novità di Alessia sarà accompagnata anche da una bellissima novità per la sua carriera e per il ruolo ormai che il suo personaggio di Alice Allevi occupa nel cuore di molte lettrici, ma anche molti lettori, perché piace molto anche ai lettori maschi, sorprendentemente, Alessia. Quali sono invece gli esordienti longanesi da tenere d'occhio? Allora, il primo italiano, a dispetto del nome che così italiano non sembra, Mirko Zilai. Mirko Zilai è un italiano italianissimo, benché di origini ungheresi, già noto, diciamo, alle scene editoriali. Per quelli che sono attenti e guardano i nomi dei traduttori, si saranno accorti che questo è il nome del traduttore del Cardellino di Donna Tartt. Mirko Zilai esce a gennaio con un thriller stupendo dal titolo È così che si uccide. È una storia allo stesso tempo estremamente personale ed estremamente rispettosa dei migliori stilemi del thriller internazionale, quindi diciamo un esordio da cui ci aspettiamo moltissimo. Però non posso almeno non parlarvi di un altro esordio, questo è primaverile, questo sarà veramente secondo noi una bomba, vi dico solo un titolo e un nome, Maestra. Questo è il titolo, Elisa Hilton, l'autrice. Stiamo parlando di una nuova frontiera, secondo me, del thriller, ma anche del romanzo al femminile. Ma non voglio dire altro, Maestra Elisa Hilton sarà la notizia della primavera, secondo noi. E allora, per Longanesi, Wilbur Smith, appuntamento fisso ogni autunno, avete sentito, con una nuova puntata della saga egizia. Poi ci sarà anche Donato Carrisi, Alessia Gazzola con il nuovo libro dedicato all'anatomopatologa Alice Allevi, che somiglia molto a Bridget Jones per le sue sfighe amorose e che uscirà in primavera in contemporanea alla fiction della Rai. Altro esordiente longanesi da tenere d'occhio è Lisa Hilton con Maestra, uscirà, l'avete sentito, in primavera. Il thriller è un primo volume di una trilogia con protagonista un'eroina che è stata definita pericolosa come Lisbeth Salander, ossia la protagonista di Millennium di Stieg Larsson. Feltrinelli, è il momento di Feltrinelli, sentiamo quali sono i grandi nomi che tornano e gli esordienti da tenere d'occhio nel 2016 dalle parole del direttore editoriale Gianluca Foglia. Per noi il 2016 sarà un anno di grandi ritorni al femminile. Non c'è un motivo particolare, ma poi quando si stende il programma editoriale si vede che ci sono delle cose che spiccano all'occhio. Quest'anno avremo una serie di ritorni importanti di autrici tra le più amate dalle lettrici e non solo. L'anno inizierà con il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, Adesso, che uscirà a febbraio, e che è un bellissimo ed emozionante libro, non tanto d'amore, ma sull'amore, sulle dinamiche dell'innamoramento, sulle dinamiche del rinnamoramento sulle paure, sugli effetti collaterali, non tanto sulla difficoltà di stare insieme, ma sulla possibilità di stare insieme, che forse è il tema più importante, più originale di oggi. E ad aprile andremo avanti con un altro ritorno importante, che è il nuovo romanzo di Simonetta Agnello Hornby, un'autrice amata, un'autrice letta, un'autrice che ritorna dopo 2 anni al romanzo con un libro che si intitola Caffè Amaro, che è una storia di libertà e di ribellione femminile nella Sicilia dagli anni 20 in poi. E poi ci sarà un ritorno internazionale molto bello, molto atteso, molto importante. Il libro è appena arrivato in questi giorni in casa editrice ed è il ritorno di una delle autrici latinoamericane più amate, Marcela Serrano, con un libro che in spagnolo si intitola La Novena e che pubblicheremo la prossima estate. E poi aspettiamo, come abbiamo già annunciato e come moltissimi lettori aspetteranno, il nuovo romanzo di Margaret Mazzantini, probabilmente nel prossimo autunno. Sulla Mazzantini possiamo dare qualche anticipazione? No, niente. È ancora prematuro, diciamo soltanto che l'aspettiamo. Poi ci saranno dei ritorni anche importanti al maschile, come il ritorno di Giuseppe Catozzella, che esce proprio in questi giorni, la prossima settimana, il 14 gennaio, dopo il grande successo di Non dirmi che hai paura, ritorna con un'altra grande storia di adolescenza, di crescita, di perdizione e di ritrovamento di sé, si intitola Il grande futuro. Ovviamente siamo ai primi dell'anno, agli inizi di un nuovo anno, e non possiamo tutti che augurarci un grande futuro, nonostante le difficoltà del mondo in cui viviamo. Ma invece tra un paio di mesi tornerà anche un altro autore molto amato in Italia, che è Jonathan Coe, con il suo nuovo libro, che è il suo 11° romanzo. Infatti il libro si intitola Numero 11 ed è il ritorno della famiglia Winshaw, quindi questa sarà una grande notizia per gli appassionati di Jonathan Coe, perché poi la famiglia Winshaw è probabilmente ancora il suo libro più amato, e qui ritroveremo i personaggi di quella famiglia non più nell'Inghilterra thatcheriana, ma nell'Inghilterra degli anni 2000, quella di Tony Blair, quella delle guerre, quella delle minacce, quella dell'arricchimento, ma anche quella che ha incubato la grande crisi in cui ancora oggi viviamo. Altri libri, così in ordine sparso, di varie case editrici che caratterizzeranno il 2016. Allora, Guanda ha annunciato la pubblicazione del nuovo romanzo di Jonathan Safran Foer, insomma quello che è diventato famoso con Ogni cosa illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino. Dopo 11 anni di silenzio, in autunno torna con Here I Am, un titolo che è anche una sorta di citazione biblica. E torna dopo 9 anni... dal successo dell'Eleganza del Riccio, la francese Muriel Barberi con Vita degli Elfi, una meditazione sull'arte, la natura e i sogni, il libro pubblicato in questo mese di gennaio da EO. Per chi ha amato invece Storia di una ladra di libri, vi segnalo che alla fine del 2016, quindi ci vorrà un po' di pazienza, ci sarà in libreria il nuovo romanzo di Marcus Zusak, stavolta con una vicenda di adolescenti australiani, naturalmente la costruzione di un ponte. Nel 2016 torna Stephen King con Bazar dei brutti sogni, sono racconti intrecciati a note biografiche, insomma per i fan accaniti di Stephen King, pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer. Vi ricordo anche che il 2016 è l'anno in cui viene pubblicato il libro di Papa Francesco Il nome di Dio e misericordia, dialogo con il vaticanista Andrea Tornielli. Il lancio avviene in contemporanea in 85 paesi, in Italia pubblicato da PM, che gestisce tra l'altro anche tutti i diritti mondiali dell'opera. E così, passando rapidamente dal sacro al profano, visto che siamo all'inizio dell'anno e ci sono molti che amano l'oroscopo, vi segnalo un oroscopo letterario, ogni segno zodiacale legato ad uno scrittore. Si trova gratuitamente online sul sito gliamantideilibri.it. E allora così scoprirete, non so, che Karen Blixen era dell'Ariete, Arthur Conan Doyle dei Gemelli, Oriana Fallaci del Cancro, Tiziano Terzani della Vergine, Bram Stoker, quello che aveva creato Dracula, che aveva inventato Dracula, dello Scorpione forse non poteva che essere così, e questo ci tengo particolarmente perché il mio segno dell'acquario era James Joyce. Anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, dedicata ai libri che leggeremo nel 2016, è veramente tutto. Grazie in regia a Filippo Aureggi, come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate su podcast su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.